Cari amiche e cari amici, bentrovati, buonasera, Maridì ai microfoni anche questa sera, questo solare martedì di giugno, e ci voleva perché era da tempo che aspettavamo un po' di sole da queste parti, e chissà che per l'arrivo del sole non ci sia anche un motivo preciso che forse fra poco scopriremo. Saluto Dani e regia. Buona serata a tutti. Aspettiamo la nostra Fiordaliso, stasera Bruxelles mi sembra essere veramente intasatissima, più del solito, non che non lo sia abitualmente, ma questa sera mi sembra che il traffico sia veramente stratosferico. Saluto il nostro George che non potrà essere qui con noi, ahimè, questa sera, quindi insomma, caro George, buon lavoro e speriamo che la nottata, come dici tu, finisca presto. Noi auguriamo a tutti voi un buon ascolto. Questa è una puntata molto ricca e sono molto molto felice perché questa sera è un po' la serata delle novità. La prima novità riguarda un argomento di cui a Bruxellando non abbiamo mai parlato e probabilmente proprio perché insomma ci deve essere sempre una prima volta sono particolarmente emozionata, perché parliamo anche di una disciplina che nel tempo mi è divenuta molto cara, che è quella dello yoga, e questa sera avremo modo poi di parlare anche dell'Ayurveda e di capire qual è la relazione tra queste due scienze o discipline, e questo poi lo chiariremo strada facendo. E poi avremo invece un altro ospite durante la seconda parte della trasmissione, che presenterà qui a Bruxellando proprio il suo ultimo romanzo, che è in uscita proprio oggi, quindi insomma sono veramente contenta perché, come dicevo, sono proprio due grosse novità e ne parliamo tutte e due durante la stessa serata. Sono quindi veramente felice di avere qui con noi direttamente dall'Italia, posso dire che è quasi venuto appositamente per noi, il maestro Amadio Bianchi. Maestro, buonasera, benvenuto. Buonasera. Grazie innanzitutto di avermi invitato qua, sono felice di essere qui con voi e può dire che sono venuto apposta perché è la verità. Quindi mi sento doppiamente onorata. Amadio, tu sei presidente del Movimento Mondiale per lo Yoga e l'Ayurveda, dell'European Yoga Federation, della Scuola Internazionale di Yoga e Ayurveda, insomma il tuo curriculum vitae è ricchissimo. Vivi e lavori a Milano? Sì. Quindi insomma sei probabilmente uno dei pochi conoscitori in Italia e chissà anche in Europa dei metodi dello yoga e dell'Ayurveda. Io prima di entrare nel dettaglio però voglio farti una domanda che potrai ritenere anche magari semplice per cominciare, ma come ci sei capitato tu da italiano in queste tecniche orientali? Sì, vi devo raccontare un pezzettino della mia vita. Io quando mi sono sentito adulto, sai, ci si sente adulti quando si comincia a scegliere quello che si vuole fare, ho iniziato la mia vita facendo il pittore d'arte. Ho fatto 10 anni di professionismo, ma purtroppo ho avuto problemi di salute. A 16 anni ho iniziato con un'anemia, a 19 è diventata anemia perniciosa, a 23 è diventato sospetto di leucemia e poi sono finito in cura da un famoso luminare dell'epoca, il professor Fieschi, in cura per la leucemia. Sono finito in questo campo perché è stato proprio lo yoga a ridarmi la vita. Spiegherò nel corso della trasmissione come può accadere questo. Però è estremamente interessante, quindi insomma è stato un percorso proprio tuo, anche voglio dire di crescita, immagino, interiore, certo, spirituale, di apertura verso nuove tecniche che ancora oggi, diciamo, in Occidente, diciamo così, proprio in Occidente non sono comunque ritenute valide o comunque come sono definite? Sono definite alternative? Sì, insomma, è un grave errore definire queste discipline alternative perché queste discipline hanno 7000 anni, cioè l'Ayurveda è la prima medicina a presentarsi sul nostro pianeta, intendo medicina razionale, scientifica. E in verità 3500 anni dopo si è presentato in Grecia un pensiero alternativo, e questo pensiero alternativo era la medicina allopatica, che oggi è la medicina ufficiale delle nostre nazioni. Quindi in effetti, per essere veramente corretti, non siamo noi ad essere alternativi, ma alternativo è un pensiero che si presenta 3500 anni dopo rispetto a un pensiero che esisteva già da tempo. Beh, allora partiamo un attimo con il definire, per tutti coloro i quali non sanno che cos'è lo yoga, oppure preferisci partire dalla definizione di Ayurveda, decidi tu. Guarda, carissima Maridì, carissima Maridì, allora lo yoga e l'Ayurveda, che l'Occidente divide, in effetti sono un'unica identica disciplina. Della stessa disciplina abbiamo una visione e un intendimento più metafisico e un altro più scientifico, quindi lo yoga è l'aspetto metafisico di questa interpretazione della natura e l'Ayurveda è l'aspetto scientifico, quindi sono la stessa identica cosa, anche se l'Occidente le divide e pensa che lo yoga debba andare nelle palestre, che l'Ayurveda deve andare in mano ai medici. Non è preciso né esatto né corretto né l'uno né l'altro, perché scopriremo che lo yoga non deve stare nelle palestre e che l'Ayurveda non può e non deve stare nelle mani di una medicina che oggi purtroppo è diventata esclusivamente materialista. Allora partiamo con una definizione semplice. Se oggi noi dovessimo definire quindi questa scienza, scienza della vita, come possiamo definirle, insieme oppure separatamente? È esattamente una scienza della vita. Come sai, ci sono sul nostro pianeta 7 discipline mediche, perché 7 sono le culture, i ceppi culturali dai quali proveniamo, e questo è uno, parlo di quello così nato in India. 7 sono appunto queste culture, e direi ogni medicina è giusta, ogni medicina seguita correttamente sarebbe giusta. Quando ci arrabbiamo con qualche medicina, non siamo arrabbiati con le medicine in sé, ma siamo arrabbiati con le persone che le applicano. Spesso i miei allievi arrivano in crisi e mi dicono: maestro, sono in crisi con la mia religione. Io gli dico: guarda che non sei in crisi con la tua religione, sei in crisi con l'applicazione magari pratica che si fa della tua religione. Perché se ti do in mano il Vangelo ti accorgi che è perfetto, che va bene, che è giusto. Quindi lo stesso vale per una disciplina medica. Se vado anche a riscoprire le origini e i principi della medicina allopatica, nata appunto in Grecia, la nostra medicina è nata che aveva un'anima, l'ha persa un po' per la strada, diciamo. Apprezzo molto la medicina occidentale, non mi fraintendere, l'apprezzo tantissimo, però mi dispiace che oggi è diventato così materialista e non è più in grado di rispondere alle necessità dell'uomo moderno, perché l'uomo moderno soffre di disturbi, 7 su 10 dei quali non sono di origine fisica. Quindi la medicina materialista non è in grado di supportare, di essere vicino a questo tipo di problematica. Quindi secondo te in che cosa differisce o differiscono le discipline orientali da quelle occidentali? Semplicemente entrambe sono figlie della loro stessa cultura. Quelle occidentali vertono più verso un indirizzo di tipo materialista e quelle orientali dall'altro aspetto, dal momento che queste discipline affermano che la vita deriva dalla presenza di due principi, una parte fisica e una parte non fisica. Cioè la prima cosa che fanno queste discipline è danno una definizione di vita e una definizione di morte. La vita risulta dalla presenza di una parte fisica e di una parte non fisica, la morte è la separazione di questi due principi. C'è una frase molto bella in uno dei tuoi libri che si chiama Nel respiro, il segreto della vita, dove tu dici che la vita, contrariamente a quanto la cultura popolare afferma, inizia con un respiro e non con un pianto. Quanto è importante la respirazione proprio in queste tecniche di cui tu ci parlavi poc'anzi? Allora, il respiro è realmente sinonimo della vita. Quando è presente la vita c'è respiro, quando c'è respiro c'è vita, quindi sta alla base della vita la respirazione. Avere e ottenere un controllo, una consapevolezza, un controllo sul respiro significa ottenere il controllo della vita stessa, è fondamentale. E nel respiro c'è effettivamente il segreto della vita, perché scopriamo che sono presenti 3 principi fondamentali, che sono il principio di assimilazione, corrispondente a una inspirazione, il principio di trasformazione e il principio di eliminazione. In poche parole, noi per curare la nostra salute dovremmo, prima di tutto, come dice lo yoga, che la parola vuol dire unione e fusione, mettere in armonia la parte fisica e la parte non fisica, e in secondo luogo prendere coscienza, occuparci di queste 3 forze, di questi 3 principi, che sono quelli che la medicina ayurvedica chiama Kapha, Pitta e Vata, che sono principio di assimilazione, principio di trasformazione e principio di eliminazione. E toglici una curiosità, allora, per quanti ci stessero ascoltando, sì, immaginiamo per esempio coloro i quali hanno un problema all'intestino, sì, così, sì, giusto per dirne uno, sì, quali suggerimenti potremmo dare così, pratici, proprio en parlant? Alle volte suggerimenti molto molto semplici, i rimedi stanno intorno a noi, per esempio, che ognuno scopra un'erba che vive nel suo proprio giardino, e questa erba si chiama malva. La malva ha, come posso dire, nelle sue foglie una mucillagine che può essere utile per lubrificare l'intestino. Basta farsi un decotto, cioè prendo una certa quantità di foglie di malva, le metto in poca acqua, le faccio cuocere, a questo punto bevo l'acqua, mangio le foglie, ottengo una lubrificazione per tutto l'apparato gastrointestinale e in maniera molto semplice potrei vedere l'intestino funzionare. Daniele in regia vuole darci un suggerimento musicale e poi ritorniamo per altri suggerimenti sulla respirazione. Capire anche dal suggerimento musicale che questa sera parliamo di un tema a noi veramente nuovo, che è quello dello yoga e della Ayurveda. Finora abbiamo molto parlato di yoga, quindi magari qualche accenno alla diagnosi ayurvedica? È fantastica. La diagnosi ayurvedica si basa sull'osservazione di 8 aspetti, che sono il principale, l'analisi del polso. Noi pratichiamo un'osservazione sul polso che è diversa da quella occidentale, non ascoltiamo soltanto il battito, la frequenza cardiaca, ma nel polso noi rileviamo la presenza in 3 punti differenti di questi 3 principi che ho enunciato prima, che sono Kapha, Pitta, Vata, la forza di assimilazione, la forza di trasformazione e la forza di eliminazione, e ne valutiamo l'azione, o come posso dire, la condizione nel momento in cui l'ascoltiamo. Oltre all'analisi del polso c'è l'analisi degli occhi. Sapete che è nata una scienza sugli occhi, quindi c'è da scoprire, cioè, un sacco di cose. Sì, la grandezza dell'occhio, il colore, la forma, la sclera, il colore della sclera e così via. Poi la pelle può dare tantissime informazioni. La lingua, per esempio, la riga che possiamo avere nel mezzo o meno può rappresentare la colonna vertebrale. Come vedete, poi sui miei libri spiego tutte queste cose qua. Oltre alla lingua c'è naturalmente l'urina, facciamo anche noi l'esame dell'urina con metodi non chimici ma di osservazione, le feci, pariprasna sarebbe dialogo con la persona, e per ultimo una cosa che potrebbe incuriosirvi, analisi dei suoni del corpo. Voi per esempio state ascoltando un suono che proviene da me e la mia voce potrebbe essere secca, pastosa, passionale, ma a parte la voce, di nuovo c'entra il respiro. Si può notare nel bilanciamento di questi 3 principi la condizione nella quale una persona si trova. Per esempio, se ha una forza di assimilazione forte avrà un'ispirazione più lunga, se ha una forza di eliminazione forte avrà un'espirazione più lunga. Faccio sempre questo esempio ai miei allievi per far capire, gli dico, anche i tratti psicologici possono essere rivelati dalla respirazione. Per esempio un avaro sicuramente respirerà all'incirca così, inspiro a lungo ed espiro in maniera molto corta, no? Che per me poi non divento un avaro, ma divento una persona con forze ed energie sbilanciate nel suo corpo, e quindi che merita la mia attenzione per essere messo in una condizione di equilibrio. E io sarei curiosa di sapere se c'è magari un episodio in questi anni che vorresti condividere con noi, insomma, magari un aneddoto, un... Sì, uno qualunque, insomma, il primo che ti viene in mente. Sì, il mio 7º libro, adesso sono al 3º, e il mio 7º libro sarà la presentazione di tutte le cose curiose che mi sono accadute come nella mia vita di terapista, al contatto con le persone. Dunque mi occupavo di un impiegato, di un capo ufficio a Milano, una persona molto gentile, elegante, insomma una persona a posto, che però era molto tesa, nervosa, non dormiva, quindi per un paio di anni mi sono occupato di lui attraverso anche tecniche manuali, perché la Ayurveda, il massaggio ayurvedico, i tamponi, così, e nel giro di 2 anni sono riuscito a ristabilire in lui un po' di calma, serenità, a fargli recuperare il sonno. Bene, lui era rimasto così soddisfatto che un giorno mi dice, maestro, sa, io ho un amico carissimo che sicuramente non ha il coraggio di venire qua perché è timido, poi sa come sono gli uomini, quando ci sono problemi a livello sessuale magari sono timidi, sa come lei, lo potrebbe consigliare ed aiutare un poco a distanza? Io gli dico immediatamente sì, non c'è problemi, la medicina indiana è una medicina completa, ha dei rimedi ottimi, la svaganda, gli spiego un'erba particolare che dà abbastanza tonicità. E così si va avanti per 5-6 mesi, lui ogni tanto veniva a fare dei trattamenti e io gli chiedevo subito come sta il suo amico, sta bene? lui diceva: sì, sa che è migliorato molto, va molto meglio. Insomma, ve la faccio breve, siamo andati avanti per 6 mesi. Un giorno si mette a piangere sul mio lettino e mi dice: maestro, devo confessarle una cosa, è così, sa, quella persona che non stava bene sono io. Io allora gli stringo la mano e gli dico: ah, finalmente siamo guariti. Perché lui mi dice: ma come, perché lei lo sapeva già, ma dal primo istante, per quello che mi sono permesso di somministrarle dell'erba con le dosi giuste, perché conoscevo già la persona che ne aveva bisogno. Questo per dire, vedi, un terapista deve essere puro come una colomba e astuto come un serpente, perché alle volte il male è davvero qualcosa di un po' difficile. Purtroppo il tempo in radio è veramente, ahimè, tiranno, ma che cosa bolle in pentola? Puoi già anticiparci qualcosa sul tuo lavoro? Sì, proprio il mio terzo libro, che uscirà verso novembre, totalmente la presentazione della diagnosi ayurvedica, ed è intitolato Ayurveda, diagnosi e terapia alla portata di tutti, perché il mio sogno sarebbe di mettere le persone in condizione di osservarsi da sole, di mettersi davanti a uno specchio, guardarsi la lingua, il colore della patina. Cioè, mi piacerebbe che la persona non sentisse la sua salute di proprietà della sanità o dei medici, ma che si sentisse risvegliato e cominciasse a occuparsene direttamente. Questo è il mio sogno, ed è anche il sogno della Ayurveda, quando cerca di andare incontro a tutti e pensa che la salute sia per tutti. E per i nostri amici all'ascolto, un suggerimento così rapido, generale? Un suggerimento generale: dunque, oggi si soffre tanto di stress, oggi la vita ci impegna moltissimo, ci prende molto, dormire diventa essenziale, importante, invece tutti abbiamo perso questa qualità del sonno, quindi tenete molto d'occhio questo aspetto e cercate di assolutamente fare qualcosa affinché possiate recuperare un sonno sano, un sonno di buona qualità, perché altrimenti è così che in pratica si mette a repentaglio la propria salute. Beh, Amadio, ti ringrazio, spero di averti nuovamente qui nostro ospite, magari proprio in occasione dell'uscita del terzo libro. E prima di salutarci, un saluto, approfittando ancora dei nostri microfoni. Sì, buona vita. Grazie. Buona vita, ma soprattutto buona vita di qualità, che è quella che manca oggi. Oggi manca la qualità. Abbiamo tante cose, tanti oggetti che ci circondano, dai quali prendiamo piacere, ma purtroppo non abbiamo una qualità dell'esistenza. Recuperiamo questa qualità dell'esistenza e lasciamo perdere un poco questi oggetti. Riscrivetevi il Padre Nostro e fatelo terminare così. Una volta il Padre Nostro in latino terminava libera nos a malo, oggi fate liberaci dai consumi, per piacere. Bene, questo mi sembra essere veramente un ottimo auspicio. Ma io ti ringrazio. Grazie e a voi. Spero a prestissimo. Ed eccoci nuovamente qui, Radio Alma, Brussellando, Mari D ai microfoni. Abbiamo appena concluso una piacevolissima intervista con Amadio Bianchi e, come annunciato in inizio di trasmissione, abbiamo un secondo ospite che sono veramente felice di avere qui con noi, perché detto tanto di lui spesso in radio abbiamo parlato nel nostro librangolo e sono veramente onorata di averlo qui con noi questa sera. Parlo di Diego Marani. Buonasera. Il quale domani uscirà con un nuovo romanzo anche molto attuale, poi magari ci dirà come ha fatto, dal titolo Il cane di Dio, edito da Bompiani. Diego, prima di parlare di questa tua ultima fatica letteraria, raccontaci un po' di te e di questa tua passione per la scrittura. La passione per la scrittura ce l'ho sempre avuta, meno convinto sono sempre stato della possibilità di farne una professione e di viverne, e ho fatto bene, perché se dovessi mangiare con quel che vendo con i miei libri, mangerei pane e acqua. Nel senso che pochi scrittori oggi diventano best seller e pochi possono permettersi di vivere con questa passione. Però la voglia di scrivere, il piacere dello scrivere per me è irresistibile, quindi ho sempre scritto. Ho cominciato a pubblicare alla veneranda età di 40 anni, ho vinto qualche premio che mi ha dato buone soddisfazioni, anche premi importanti come il Campiello. E quindi ogni tanto, quando la natura chiama, mi metto a scrivere un nuovo romanzo. Ma cosa vuol dire la natura chiama? Perché capisco che ciascuno abbia la propria ispirazione, però fammi capire. Per me lo scrivere è un modo di pensare, è un modo di guardarmi, è un modo di È un diverso modo di andare dallo psicanalista, invece di pagare guadagno qualche soldino, quindi conviene anche in fondo. E non è l'ispirazione è un po' una favola, certo c'è bisogno dell'idea, c'è bisogno di coltivare un'idea perché diventi libro, ma c'è anche lavoro, mestiere, assiduità, ricerca, soprattutto assiduità, scrivere e pensare, scrivere e... Anche quando non scrivo, io scrivo perché la testa è nella mia storia e quindi è un modo di scrivere, di preparare prima l'ordito del tappeto che tesserò poi quando mi metto a scrivere. Ci sono autori che hanno influenzato particolarmente la tua scrittura? Ma sì, questa è la domanda che si fa sempre e la domanda alla quale non so mai rispondere perché io sono capriccioso, non ho autori preferiti. Cambio come cambia il vento, in certi periodi mi piace una scrittura, certi altri periodi un'altra scrittura, qualche nome viene a galla ed è sempre lì, come per esempio Georges Simenon, lui mi piace sempre. In generale mi piace, ecco è brutto che lo dica uno scrittore contemporaneo, ma mi piace di più la roba che è stata scritta 50 anni fa almeno, che sia un po' depositata, non troppo vecchia, non la roba dell'Ottocento perché quella è troppo lontana da noi, ma ecco la stagione degli anni 30, fino agli anni 50, qualsiasi letteratura mi piace, anche italiana, mi piace Pirandello, mi piace Verga, mi piacciono anche queste vecchie cose perché sono classici. Rileggo molto spesso, anche in questi giorni, l'Orlando Furioso, questo perché sono un ferrarese. Rileggo Bassani sempre perché sono un ferrarese, perché mi piace la sua prosa pulita. Poi ho certi vezzi così strani, mi piace uno scrittore che pochi conosceranno che si chiama Leo Perutz, un praghese degli anni 30 di lingua tedesca, o Lernet Olenia, sempre dello stesso periodo, in Italia editi da Adelphi, o Gregor von Rezzori, che è uno di quelli che rileggo. Quindi ecco, non approfondiamo, non ho una coerenza di lettore e come non ce l'ho da scrittore, salto un po' da un argomento all'altro. Beh, mi sembra insomma che il background sia abbastanza variegato, quindi mi sembra giusto poi che anche la tua scrittura possa esprimere queste tue caratteristiche. E toglimi ancora una curiosità, come pensi che proprio rispetto a quello che hai detto finora la tua scrittura sia cambiata nel tempo? Oppure non è cambiata, è stata semplicemente arricchita magari da altri punti di vista? La scrittura, la tecnica, penso che sia sempre quella, o comunque sia un'elaborazione della mia caratteristica. Mi considero uno scrittore tradizionalista, un classico. A me piace la trama, piace l'intrigo, sviluppare una storia. Non sono un nombrilista, non mi piace scavarmi dentro e compiacermi di quel che ci trovo. Mi piace anche nelle storie autobiografiche che ci sia una narrazione, che ci sia un intreccio. Chiaramente a leggere i miei libri di 10 anni fa, certo trovo differenze, soprattutto nella costruzione. Mi accorgo che col tempo ho inspessito l'articolazione del mio periodare, ecco, e che ho anche così acquisito un certo mestiere nel costruire trame. Questo è un esercizio potente per uno scrittore e credo che sia la cosa più difficile, perché appunto, come dicevo prima, è un po' come un tappeto, come tessere un tappeto. Quando si ha il disegno, in fondo bisogna solo mettere il filo e il colore, ma per fare il disegno, per comporre la storia che quadri e che a ogni filo corrisponda il movimento giusto, ci vuole un grande lavoro. Posso veramente immaginare. E quanto invece la tua esperienza qui a Bruxelles ha arricchito questo tuo percorso? Un'esperienza magari anche, diciamo, multilingue? La mia esperienza di vita brussellese, che poi è la mia vita perché io vivo qui da ormai 26 anni, ha profondamente influenzato il mio accesso alla scrittura. Non so se avrei scritto se fossi rimasto in Italia, e ancora oggi sono considerato anche in Italia un po' uno scrittore straniero, mi si considera un italiano anomalo, un po' perché sono fuori da tutte le mode, da tutte le tendenze, da tutto quello che è establishment letterario in Italia, non per scelta ma semplicemente perché sono qui e quindi non ho contatti prolungati e continui con il mondo della scrittura e con il mondo della narrativa italiana. E un po' anche perché mi ispiro a letture molto spesso straniere. Io ho sempre letto pochi italiani, anche qui non per scelta, ma perché vivendo qui è stato a lungo più facile trovare scrittori o francesi o anche inglesi o di altre nazionalità che non italiani. E comunque anche oggi che l'accesso al libro con internet e tutto il resto è più facile, io preferisco leggere in ogni caso nelle lingue, gli autori che scrivono, certo, nelle lingue che conosco, nella lingua originale. Non riesco a leggere un libro tradotto quando so la lingua, non perché non apprezzi il lavoro del traduttore, anzi è un lavoro che ammiro tantissimo e che apprezzo profondamente, ma perché ho bisogno di sentire la lingua nella sua originalità. Toglimi una curiosità, tu sei stato anche tradotto, se non sbaglio. Sono tradotto in varie lingue, sì. E nelle lingue che tu conosci, che effetto ti fa rileggerti in francese, magari, o in inglese? Mi fa un grande effetto, mi dà una grande soddisfazione, mi viene l'illusione di essere stato io a scrivere in quella lingua, quindi di avere il potere di scrivere in varie lingue. Bene, guardami, effettivamente credo sia un'emozione che non si possa nemmeno descrivere, penso, con poche parole. Veniamo invece a questa tua ultima fatica letteraria, Il cane di Dio. Cito alcune delle frasi del tuo romanzo e udite udite, perché se qualcuno avesse applicato il suggerimento indicato in questo romanzo, probabilmente di questi tempi e di questi giorni la stampa sarebbe meno ricca di dettagli. Capirete subito perché. Un agente e il suo vicario non dovevano mai vedersi né conoscersi. Non dovevano usare telefoni cellulari né posta elettronica. Ogni comunicazione tra di loro doveva essere esclusivamente orale. Questa era la prima regola di sicurezza degli agenti segreti della Polizia Pontificia. Domani esce questo tuo libro, siamo in piena crisi, diciamo, istituzionale per quanto riguarda la Santa Sede, con queste fughe di notizie, insomma, senza individuare chi possano essere questi corvi, insomma, tanto è stato scritto e detto. E come nasce invece, perché il tuo libro immagino risalga almeno a qualche mese fa. Sì, l'ho scritto l'anno scorso. Ecco, qual è stata la tua fonte di ispirazione? Ma ecco, devo appunto insistere sul fatto che questo non è un instant book scritto 15 giorni fa sull'onda dello scandalo in Vaticano. Io l'ho pensato almeno un paio d'anni fa e l'ho scritto l'anno scorso, nell'arco del 2011. L'idea ce l'avevo in testa già da un po', e viene da una mia esperienza personale, dalla morte di una persona cara, e che mi ha spinto a riflettere sulla malattia terminale, sull'eutanasia, su questo aspetto della vita che con molto accanimento la Chiesa di oggi vuole controllare, come tanti altri aspetti. E mi sono quindi immaginato che cosa sarebbe la nostra bella società e la nostra bella libertà se piano piano ci lasciassimo così imporre delle regole che non sono più regole sociali, ma che sono regole religiose, un po' come lentamente è successo in Iran tanti anni fa. Quanto ci vuole perché una società libertaria diventi una teocrazia? In fondo pochissimo, perché anche solo con la questione dell'aborto, che oggi è un diritto e che è effettuato secondo delle regole e con una rigorosa applicazione di queste regole, ecco, se un giorno venisse vietato, subito l'operazione chirurgica, che oggi è legittima, diventerebbe un reato. E tante persone che oggi legittimamente vanno all'ospedale per chiedere un intervento di questo tipo, con tutte le cautele che comunque questo, certo, presuppone, tante persone diventerebbero dei criminali. Ecco, il passo, ho pensato, è breve per arrivare all'inizio di tutto questo, e ho immaginato un'Italia repubblica cattolica teocratica, proprio come è oggi l'Iran, con la Chiesa cattolica al posto dei mujahideen del popolo. Beh, insomma, l'esercizio mi sembra estremamente interessante, anche perché effettivamente la teocrazia l'abbiamo vissuta qualche secolo fa e ci sono voluti secoli di illuminismo per ripristinare il concetto di laicità, che effettivamente è probabilmente non in tutti i paesi ancora realtà. Ci sono vari argomenti, mi sembra di capire, che o comunque chiavi di lettura di questo tuo romanzo. Da un lato c'è questa lotta, come tu dicevi prima, all'eutanasia e quindi mi sembra di capire alla scienza. Quindi l'obiettivo del tuo protagonista, che è Domingo Salazar, qual è poi propriamente? Beh, il mio protagonista è un agente segreto pontificio e quindi è un soldato della Chiesa. Un cane di Dio, come dici tu. Un cane di Dio perché è un domenicano e domenicano, con un gioco di parole in latino, è Dominis Canis e quindi il cane di Dio. Li chiamavano così per prenderli in giro, chiaramente non è questa l'origine del nome, ma è San Domenico. Il mio protagonista è un agente segreto che opera appunto per la supremazia della Chiesa nel mondo, ma è un agente segreto spregiudicato che non si fa problemi di coscienza o di morale e neanche di religione, ragiona in termini di supremazia, di imposizione del potere della Chiesa e così opera e così agisce e non si fa scrupoli nel perseguimento dei suoi obiettivi ad allearsi anche con un agente islamico, con islamici e con membri di altre religioni, perché l'obiettivo suo e della sua Chiesa è di lottare contro l'ateismo e quindi qualsiasi religione va bene per la sua causa. Ho immaginato tutto questo non in un futuro così di secoli, ma in un futuro prossimo, una decina, una ventina d'anni più avanti di oggi, per rendere intanto questa idea di imminenza, ma poi anche per far vedere che basta poco a travasare una società in una situazione completamente diversa, a cambiare completamente i fondamenti di una società. Un'altra cosa che devo dire, ecco, di questo romanzo è che dietro l'azione, dietro il vortice delle azioni, c'è molto pensiero, ci sono varie riflessioni. Una delle fondamentali, una delle più forti, secondo me, di quelle che ho voluto mettere, è la riflessione sul che cosa vuol dire religione. Uh-huh. E molti, leggendo questo libro, o almeno prendendolo in mano, penseranno che io sono contro la religione. Sono piuttosto contro la Chiesa, non contro la religione, contro la Chiesa autoritaria e dogmatica che vediamo oggi. La religione è un istinto naturale e normale dell'uomo, la religione nel senso della percezione del sacro, del bisogno di esplorare il luminoso, il mistero che ci attorna, che ci tocca per il solo fatto di vivere, è una ricerca spontanea che fa l'uomo. La Chiesa, le Chiese, i sistemi di potere religioso ne fanno un business, ne fanno un sistema di controllo della società e questa Chiesa, soprattutto questa ultima Chiesa cattolica, con un autoritarismo che non conoscevamo da prima del Concilio Vaticano II, sta portando così all'estremo le sue imposizioni. Quello che io dico, le riflessioni che io faccio, sono molto simili a quelle che conduce Vito Mancuso, il teologo Vito Mancuso, uh-huh, in un saggio che a me è piaciuto tantissimo, uscito recentemente, Io e Dio, dove, con mia grande sorpresa, perché poi l'ho letto dopo aver scritto il mio romanzo, in fondo traccia completamente il mio sentire, denunciando l'autoritarismo di questa Chiesa, della Chiesa di Papa Ratzinger. Molti cattolici oggi dicono: ma io non credo a tutto quello che dice la Chiesa, io credo solo a certe cose, certo non credo agli angeli custodi. Ecco, questo per me è profondamente sbagliato, perché bisogna avere, quando ci si dice credenti, quando ci si dice fedeli di una religione, appunto l'onestà di dire: bene, io sono fedele, sono credente, credo e quindi credo a tutto il pacchetto, non a quello che mi piace di più e lascio da parte quello che non mi piace, perché allora diventa un self-service delle religioni, questo diventa un fai da te della religione, non è serio, perché se il chi si dice cattolico oggi guardasse veramente il catechismo di Ratzinger e lo leggesse dall'inizio alla fine come ho fatto io scrivendo questo libro, si accorgerebbe che contiene delle cose che l'uomo d'oggi non può dire di credere, che possono spingerlo a riflettere, ma che l'uomo d'oggi non può sposare come un dogma, come una cosa certa, assoluta e indiscutibile. E questo è il male di accettare passivamente il dogma della Chiesa e la religione come una verità rivelata. Se ci si professa credenti, quindi se si considera la verità rivelata, professata da una Chiesa, come l'unica vera, che si abbia il coraggio di dirlo, ma che si abbia il coraggio di rispettarlo fino alla fine, quindi di accettare che esiste l'angelo custode che è qui sul lato sinistro, che ci soffia sul collo, perché così dice il catechismo di Ratzinger, come tante altre cose dice il catechismo di Ratzinger. Toglimi una curiosità: nel tuo romanzo c'è spazio anche a riflessioni della società civile, quindi magari riflessioni esterne a uno dei tuoi protagonisti? C'è un dualismo, metti in moto un dualismo tra riflessioni magari più religiose e invece riflessioni di chi vive al di là di questa Chiesa cattolica, oppure invece il dialogo è interno all'istituzione Chiesa e basta? No, questa è una storia ambientata in un'Italia teocratica dove chiaramente la società civile c'è, esiste ed è condizionata da questo regime, quindi ci sono gli oppositori, ci sono tutti quelli che non condividono la nuova Repubblica Cattolica e che si oppongono alle sue imposizioni. Chiaramente è un romanzo così fantasioso, di fantasia, certo. Però quello che narro è così verosimile che lo si confonde con una realtà appena distante da noi, ecco. E quando hai appreso dai giornali quello che era accaduto, che cosa hai pensato? Beh, ho pensato ben venga, perché così è un'insperata pubblicità proprio da chi non apprezzerà il mio libro, ecco. Non penso, anzi mi aspetto la scomunica, la attaccherò al muro chiaramente appena arriva, accanto al mio diploma di cavaliere, ne sarò quasi più fiero. D'altronde la scomunica piacque anche a qualcuno, quindi insomma quel qualcuno era Lutero, che addirittura la bruciò, e questa storia non sarebbe molto lusinghiero, non inventiamo nulla, quindi voglio dire, Diego, noi ti ringraziamo, non credo che tu stia già lavorando a qualcos'altro, oppure insomma sei già in procinto di dar vita ad un nuovo romanzo? No, adesso stavo sinceramente riposandomi. Ho già pronta una nuova trama, una nuova avventura dell'ispettore pontificio Domingo Salazar. Quindi un seguito? Un seguito, sì, ma non ho ancora cominciato a scriverla, adesso lascio la mente riposare. Magari aspettiamo anche gli esiti di questa tempesta in Vaticano e chissà che non sia lì. Ecco, sì, intanto raccolgo elementi. Raccogli elementi, informazioni, suggerimenti e chissà che non sia il romanzo giusto. Quindi ricordiamo, Diego Marani, Il cane di Dio, edito da Bompiani, sarà disponibile in libreria domani. Vi posso anche dire che alla libreria Piola, qui a Bruxelles, la copia sarà disponibile. Ah, una cosa volevo ricordare: presenterò il libro alla Piola il 20 di giugno alle 19. Quindi il 20 di giugno alle 19, per quanti fossero a Bruxelles e non avessero già preso impegni, mi sembra insomma una data abbastanza lontana per poter organizzare le vostre agende. Diego, c'è un saluto oppure un ultimo consiglio, un suggerimento per i nostri amici ascoltatori? Ciao a tutti e leggete, ascoltate la radio e leggete tanti libri, che fa sempre bene. Noi siamo pienamente d'accordo, tra poco la parola al Librangolo, quindi Diego ti ringraziamo e un grosso in bocca al lupo per il tuo romanzo. Crepi il lupo. Bene, io riprendo così subito perché il tempo veramente è tiranno e c'è ancora qualcosa da dire dopo il Librangolo, quindi Librangolo. Grazie. Prego. Tutti orecchi. Grazie. Stasera parleremo di Revolutionary Road di Richard Yates, che stranamente io l'ho trovato molto strano che i traduttori italiani non abbiano cercato di trovare una soluzione a tradurre Revolutionary Road. Va bene, ok, mi adeguo. Comunque anche in italiano lo potete trovare con il titolo di Revolutionary Road. Si tratta di un libro che racconta la storia di una giovane coppia. Non è per niente un libro facile e non è per niente raccomandato per momenti in cui uno si sente un po' in crisi. Quindi ve lo raccomando per per i periodi di riflessione sulla vita, però senza disperazione. E quindi si tratta di questa giovane coppia che, quando si incontrano, poco dopo già sono affrontati ad una crisi, e questa crisi è che la ragazza, che si chiama April, diventa incinta, e lei non vuole questo bambino, e anzi neanche lui vuole questo bambino, però in un momento di rabbia, discussione, alla fine prende molto veementemente la parte di tenere il bambino, e alla fine loro fanno tutte le decisioni che conseguono da questa prima decisione, un po' però falsa, perché nessuno di loro è veramente quello che desidera. E quindi si sposano, lui accetta un lavoro che non è impegnativo, e anzi accetta un lavoro addirittura di cui lui possa ridere, se possiamo dirlo così, che lui possa guardare un po' con disprezzo. Hanno anche un secondo bambino, vanno a vivere nella suburbia della suburbia americana, e veramente è di qua che comincia la storia. Però io ho preso questo episodio perché, nella mia opinione, è proprio la chiave della storia, quello che spiega quello che sta succedendo dopo, attraverso questa quotidianità, questi momenti felici, momenti tristi, le amicizie, questa vita tutta costruita, complessa, però in fin dei conti sopra una falsità, e questa è una cosa che comunque tende a ritorcersi contro i personaggi. E quello che Richard Yates è capace di fare è di costruire una storia in un modo quasi come i scrittori delle vecchie tragedie greche, che uno ha il sentimento che queste cose non possono andare altrimenti. C'è una tragedia preannunciata, ma anche fatidica, ineluttabile, eccetera, eccetera, come se ci fosse stato qualcuno che l'avesse previsto, ed è là che vanno le cose. Non che manchino i momenti di possibile cambiamento. Ad un certo punto la coppia sta riflettendo di andare in Europa, a cominciare una nuova vita che potrebbe essere un po' la salvezza di tutti, perché tocca di più quello che loro avrebbero sognato, diciamo, più alcuni anni fa. Però alla fine sono messi di fronte ad un'altra crisi, e alla fine questo porta là dove porta, e non voglio dirvi dove porta, perché altrimenti vi rovino tutti gli elementi della storia. Però quello che vi devo ancora dire di questo libro è il fatto che Richard Yates è davvero uno scrittore abbastanza bravo, nel senso che di parole inutili, cioè superflui, ce ne sono poche nel libro, cioè è tutto molto impacchettato in modo stretto, quindi non ci sono degli episodi inutili, superflui, non ci sono dei personaggi superflui, tutti i personaggi sono elaborati in modo bello, uno sembra di vederli, quelli che danno fastidio, quindi è proprio un libro vivente da questo punto di vista. E anche i punti di vista, quando cambiano, sembra quasi una necessità, perché un personaggio da fuori magari riesce a descrivere una situazione o dare il vero sentimento di quello che sta succedendo rispetto ai protagonisti. E così succede, per esempio, anche alla fine, in cui non sono i protagonisti a parlare, ma alcuni dei vicini. E quindi è un libro assolutamente da raccomandare, è un buon libro. Però, di nuovo, se siete depressi, bene. Beh, allora ricordiamo nuovamente titolo, autore, ovviamente, se ti ricordi casa editrice, sai che so che okay. Quindi Richard Yates, Revolutionary Road, anche in italiano Revolutionary Road. Ne hanno fatto anche un film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, che purtroppo non ho visto, anche se ho sentito un sacco di lodi sulla loro prestazione di attori, e buona lettura. È buona lettura, sì, quindi insomma veramente vi auguriamo un'ottima lettura, perché di buona lettura per fortuna ce n'è ancora tanta, bisogna saperla scegliere, selezionare, però si possono leggere ancora tante belle cose. Per venire invece al nostro Bruxellando, insomma questa nostra arte di andare a zonzo in giro per Bruxelles, qualche suggerimento di agenda, un'agenda estremamente ricca anche di eventi italiani. Cominciamo con il Teatro Beaux-Arts di Bruxelles. 8 e 9 giugno 2012, ovviamente, un tranquillo weekend di follia. Ritorna Vito La Raspata, ritorna dopo un anno, insomma, di attesa, dopo il successo dell'incidente nel 2011. Sapete che è la sua bottega magica, no? È la sua bottega magica, quindi ritorna venerdì e sabato alle ore 20. La biglietteria è online, quindi potete semplicemente andare sul sito del Bosar per poter prenotare i biglietti. Il cast è quello abituale, quello al quale lo stesso Vito ci ha abituato. Pensiamo per esempio ad Ortensia Semoli, Emanuele Volpi, Alessandro Gallizioli e tutti quanti gli altri. Quindi vi auguriamo ovviamente un ottimo in bocca al lupo e speriamo che tanti possano partecipare. Continuiamo invece con un'altra proposta, che è quella degli amici dell'associazione Sintesi. Giovedì, quindi dopodomani, propongono Scialla di Francesco Bruni, che pare sia un film che abbia riscosso molto successo anche tra la critica. Quindi, come al solito, Sintesi propone due sedute, una alle 18.15, l'altra alle 20.30 e, come sempre, presso il cinema Stockel a 17 Avenue de Hinnesdal, 1150 Bruxelles. E inoltre vi ricordo ancora un evento di altri amici, ormai veramente sono tutti amici di Brussellando, qua fra poco avremo veramente amici un po' dappertutto. La Vita Belga organizza lo stage di Tamburello e Tamorra, quindi insomma questa mi sembra essere un'ottima iniziativa per quanti volessero apprendere quest'arte, quella della tammurriata, che vale la pena apprendere, credo, no? Insomma, sprigiona poi tantissima energia, quindi per quanti volessero imparare un po' quest'arte estremamente originale, questa danza tipicamente pugliese, potrà farlo venerdì 29 giugno, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, con orari un po' diversi. Quindi invito tutti coloro i quali sono all'ascolto di inviare un'email a info@lavitebelga.eu recando come oggetto stage di Tamburello e Tamorra, e tutto ciò avrà luogo alla Maison della Solidarietà, quindi a Rue du Viaduc a XL. Infine, un evento che non è solo italiano ma europeo e che vale la pena sottolineare è un concorso di creatività promosso dalla Commissione europea per festeggiare i 20 anni di mercato unico europeo, quindi 1992-2012, e si chiama per l'appunto Generation 1992, ed è proprio questo concorso che è stato lanciato in tutti e 27 i paesi membri dell'Unione Europea, e la domanda è: che cosa pensano i ragazzi dell'Unione Europea? Quindi proprio è rivolto ai ragazzi, ai ventenni, innanzitutto capire che cosa sanno del mercato europeo e poi capire effettivamente se sono consapevoli delle libertà che offre e quali sono gli sviluppi che si aspettano dal futuro del mercato unico. La deadline quindi per poter inviare la candidatura è molto lontana, quindi entro il 9 settembre 2012, e ci sono più categorie come a cui potersi iscrivere: istruzione e cittadinanza, lavoro e imprenditoria, cultura e tempo libero, consumatori e ambiente. Per quanti volessero saperne di più, www.generation1992.eu/it, insomma, per l'Italia. Ricordiamo che ai vincitori di ciascuna categoria sarà offerto uno stage di 14 giorni presso le istituzioni europee e in alcune imprese multinazionali. Apparentemente sono anche previste una serie di altri premi, quindi secondo me è un'occasione abbastanza interessante per avvicinare i giovani all'Europa. Insomma, l'Europa è una realtà e va coltivata. Dani M. Brontola in regia, quindi immagino che il mio tempo sia finito, però c'è un'ultima cosa che volevo ricordare, che invece questa è una comunicazione istituzionale, Daniele, perdonami, non me ne vorrai. È praticamente dal capo della cancelleria consolare di Bruxelles ci viene detto che in merito alle carte d'identità, da circa un mese, dallo scorso 10 maggio, è in funzione presso la nostra cancelleria un nuovo sportello presso il quale tutti i nostri connazionali potranno depositare dal lunedì al venerdì, dalle 10 e dalle 12.30, le domande di rilascio o rinnovo di carta d'identità senza appuntamento. Queste ultime saranno controllate direttamente dall'operatore al momento della consegna, pertanto insomma questa prassi viene velocizzata, e questo è ulteriormente interessante per quanti hanno solo questo documento di identità. Io ringrazio proprio tutti, ringrazio Dani MRG, Buona serata a tutti. La nostra Fiordaliso per questi suoi straordinari suggerimenti di lettura. Grazie a voi. Diego Manani, che è stato qui nostro ospite nella seconda parte della trasmissione, a cui pure a lui rivolgiamo veramente i nostri migliori auguri per Il cane di Dio, ricordo, edito da Bompiani. E il nostro ospite della prima parte della serata, Amadio Bianchi, che è stato poi con noi tutta la serata, il quale è in procinto di scrivere un terzo libro, quindi noi siamo già pronti in attesa di poterlo ripresentare quanto prima. Io ringrazio tutti voi all'ascolto, vi auguro un'ottima settimana, sperando che il sole non tramonti così presto. E noi ringraziamo tutti martedì. Grazie, ciao. Ciao.